Azzardo, ci sei? Azzardo? Azzardo, sarà Zinelli la faccia nostra. Ti senti a Rovaracchino, Sarà stacco molto. Chi? Tu? Azzardo. Sezione 10. Avanti. Dammi un controllo di radio di Santiago. 9,5, radio 5. La radio è un po' così. Ma è troppo bassa, Luca? No, è da rimbombante. Guarda un po' adesso. Prova. 1, 2, 3, prova radio. Adesso va bene. Allora, con 60 vuole regolare o meno di guarda, io lo tengo così, questa è la mia solita. Guarda come va, Luca. Aumenta un po'. Aumenta un po'. Hola, 1, 2, 3, prova radio. Va bene adesso. Diversa da quella che utilizzo solitamente, Luca, di quello mio. Ah, tu che mi spinge di più. Quello mio spinge un poco di più. Qua siamo, te presente, a 2 come Mickey Game con questo apparato qua, si può salire. Io a casa lo tengo a 1. Il segnale comunque è buono. È da 7 a 9,5, sì, abbastanza. Cos'era il problema? Già te lo spiego a 2,4. Allora, guarda un po' adesso il segnale, Luca. 1, 2, 3, 3, per spezzare molto. Ma guarda che i picchi sono positivi. Sì, esatto, ma non si sa detto niente, sei sempre uguale da me. Addirittura, guarda adesso, mi sta abbassando un pochettino, adesso. Ah, hai fatto 9,5, quasi 9,7, dai. Non ci, a 9,10 non ci arrivi, però ho saltato di un bel. Allora mi devo abbassare, guarda adesso, sta abbassando il mic gain e sta aumentando la potenza. Cosa succede? Esatto, no, niente. Metti come la prima. Ok, guarda un po', adesso mi ritorno a posizione sua. Hola. Guarda la radio. Fai il passaggio di nuovo. 1, 2, 3, prova radio, canale 10. E la sarà così. Va bene così. E rispetto al tunnel, com'è la modulazione? Fai, faccio parlare a Riccardino, così lui ti prova tutti e due i microfoni. Ciao Luca, adesso sto usando il 60, provo a farti sentire il più 2. 1, 2, 3, prova, 2, 3, prova radio. Adesso attacco il più 2. Questo cos'è, il 60? Sì, positivo, il 60. Bello, bello. A te tu lo fai andare di più, voce bianca. Voce bianca, sì. Vai, prova l'altro. Spinge di più il più 2, mi vedrai. Siamo adesso Natalino, Luca, come mi sentite? Adesso sto utilizzando il più 2, come sta andando? Ma te ne scando però, sì. Dovresti abbassare un po' l'amplificazione, forse anche il watt. Prova. Adesso 1, 2, 3, prova, 3, prova radio, come sta andando? Adesso va bene, sì, allora spinge, più 2, spinge di più il più 2. La qualità è diversa. Ma stai fischiando però, Ciao. Ho detto che stai fischiando, che è importante? Da c'è? Che è importante, senza parlare. Adesso no, prova a sentire un fischio, un innesco. E anche la doppiaggio di amplificazione innesca. Un attimino che me ne levo, la roba devo finire tutto. Cava cava. Te l'avevo detto che spingeva di più il più 2. E io ce l'avevo quel microfono originale. L'avevo messo su un 857, era una belva. Che mi chiama? Oia, che è? Avanti! Non ti ho riconosciuto, dai, avanti, QRZ! All'aleare! Ah, io faccio con X per fare la cena, ci sentiamo più tardi. Ciao ciao! Ciao Tony, ciao! Tony! Ehi, dimmi, Riccardo! Ti stavo salutando, non hai detto che stavi andando? Cosa? Tony, ma cosa hai detto? Stavi andando? Non ho capito. A prepararmi la cena. Buona casa. Ciao, ciao. Grazie anche a te quando la fai. Dai, continua a fare i controlli, dai. Salutami anche Roberto e tutti gli altri giorni in ruota. Danilo, o chi c'era? Gianni e Cicomino. Ce lo sa lui. Ciao, ciao. Chi è che mi sta chiamando? Un altro apparato, un Alan 43 con un microfono da tavolo. Oh, di ieri era sempre un Alan 43. Per no, questo ha più watt, gli ho fatto salire i watt. Sì, ci sono. Per caso tu ti chiami Gianluca? Ah, K. Va bene, invece il nominativo, il QRZ? Nominativo CB. K. I watt. Sta uscendo con 20 watt modulati. Adesso ho uno smitter un po' avaro, non so dirti bene il segnale. Santiago 7, sarà radio 5. Positivo, è buona la radio. Parlano, Riccardo. Parlando con Gianni da Porto Torres. Passo basso arrivo. E Luca. Luca, Gianni ti ha chiesto se ti sei abbassato, l'altro giorno eri più forte. Vabbè, sto uscendo con 7 watt, dall'altro dava 20 watt. Ma che Gianni... Ma, non mi ricordo il nome attivo adesso. Gianni è... Rispetto. Già, non è scacciarti fuori, sei molto basso qua, Molto basso, ma per Riccardino sei più positivo, ma a me è molto basso. Oh, Riccardino, cos'è che non capisco? Mi sono distratto un attimo. Cosa hai detto, Gianni? Chiesto se ha aumentato qualcosa. La radio, la segnale ne ha quasi manco uno, Perché la radio è bassa, non riesco a tirarlo fuori. Avanti, chi sei? Ciao Leo, salutoni. Segnale prima 1, adesso sì, sì, segnale, avanti. Cavolo, sono passati un po' di anni, Passati anni, e comunque arrivi benissimo, là, abbastanza bene. Ripeto, fai che sei, fai 9, dai, segnale di 9, qua a Sassari, avanti. Siamo io, Natalino, se c'è ancora Riccardino da zona Monte Alto. Avanti Riccardino, senti. Ciao Leone, da dove? Da Istir, se ho capito bene, mi confermi? Sì, ti confermo, chiaro. Bene, grazie, ti saluto e ti rilancio all'amico Natalino se c'è ancora. Attento Natalino. Vabbè, come mi ascolti a Istir, bene? Bello chiaro, là, bella bella. Ah, mezzo gare, andrà bene. No, io stavo provando, avevo come sono andato avanti, però non riesco a essere molto quello che era nella condizione. E qual è? Io non avevo comprato la Lombardia, tutto la Lombardia, adesso, non lo so. E che macchino è, se lo posso sapere? Un Intercede, quando c'è il tuo canale. Ah, ho capito, ha omologato, sì. Sì, ha omologato, quello che è quello, anche se si chiama, mi ha detto non fa. Cosa c'ha? Non accende? No, accende, ma non esce di là, non esce di ricezione. Sono i finali, per da controllare. Se vuoi chiedo a un amico se te lo controlla. Io non avrei un paio da controllare, perché se ne uno che lo deve scambiare, se ne ha che quello funziona, forse perché non ha più. Cavolo, minimo, quanti anni è che non entravi? Non mi ricordavo, entrava anche Torino da Usini. No, Torino non mi ricordo, anche a me. E dico, entrava anche lui anni addietro. Anni addietro quando c'era Oh, comunque questo virus ha diciamo svegliato la 27. Dico, questo virus non ci voleva, comunque ha svegliato la 27. Ancora la manto fai? E adesso sto viaggiando con la manto, ma l'attacco. Già arrivi bene, dai. Natalino ci sei? Mi sa che Natalino si è ritirato per far vedere la TV. Che vai a paura che disturbi, è casino, carità. Avanti Riccardino. Riccardino, che sei buido. Un attimo, scusami, visto che stavi parlando con Leone a Itiri, mi sono assentato un attimo, scusa, non ti ho avvisato. Mi assento 5 minuti. Ah, ok. Chi è l'altro qua a parlare? Casino, questi apparecchi col tempo poi si rovinano. Hanno bisogno anche loro da mangiare, corrente elettrica. Io non lo stavo. Aspetta. Ma lo senti altro? Senta, per divertire la nonna, davvero, dai, guarda come sono uscito, c'è la nonna che mi scolcolo, me ne passare 5-10, 5-4. Ah, ora c'è un lavoro per te, se ti interessa. Ma di cosa si tratta? Mia, sì. Non mi ricordo un attimo, vabbè, da Itiri comunque. C'ha due baracchini che non funzionano, se li controllavi. Capito? Ho capito bene. Vabbè, forse non lo senti. Comunque, magari, boh, o mi lasci il numero, poi ti faccio. Ti metto in contatto con lui e te li controlla. Lui è Antonio Riserva. Boh, non se lo conosci. Comunque se ti devo riparare, mai ti metti d'accordo con lui, vi date appuntamento e li riporti, intendiate il sistema. Sì, adesso lo riprovo di nuovo, alla volta non ho sbagliato qualche cosa, tanto magari, perché siamo fissati, da quanto tempo, non sapevo come funzionava. Brava Maria, vedi un po'. Senta, domani poi ci sentiamo, dai, io chiudo che ho la spalla, ci sentiamo le ciao, ciao, ciao Leo. Chi era Luca che stavi parlando? Leone da Itricla. Se ne rompono più vetti, vabbè. C'è ora da mangiare. Io ho già cenato, vabbè. Cioè adesso mi pigiamo e mi guardo la TV. E la stessa cosa ti dico. Vi ho ascoltato per tutta la sera, adesso spiego tutto e vado a vedere la televisione. Ciao. Ciao. Attendo 10, c'è qualcuno? Hola. Questo va tirando fuori, questo tira fuori, quando sotto 10 farà un sottovato che si tira. Allora, c'è qualcuno su 10? Questo è al contrario, c'è questo, fanno guardare. No, c'è qualcuno su 10? E sono 10? Quindi è bene. Ma se sta a più di 10? Io sono 15. 15 sono a più di 10. Sono 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto. Avanti. Tu Gariè. Ma vero. Tutti fuggiti se ne sono. Perché non rispondi quando ti chiamo? Ah, poco male. Avvero. È avvero. Ma avvero o ma però? Sì, Quanti? Perché sul canale 10? Oh, e dove sei? Qua fanno la caserma. E qua fanno la casa. Mi dico che non mi hai riconosciuto, no? Ma mi ascolti? Se parli di secondo luogo, lo devo far fare, ti sento. Quindi adesso mi ascolti? Esatto, penso che mi permettiamo di un secondo luogo che sei importante. Sto andando bene? Va bene, però la voce è fatta bassa. Tipo, non ho capito cosa mi stai dicendo, scusa un attimo. Cosa hai detto? Quando prendi il passo, prima di parlare, devi aspettare una frazione di secondo, perché all'inizio della trasmissione non c'è radio. Ho capito, va bene. Comunque, la radio com'è, presente oppure è bassa? Notto che se. Tre prova e tre prova radio, vediamo come sta andando. Notto che se. Non ti ho capito, che c'è uno che mi dice notto che se, sarà chi sarà. Avanti, chi è che mi dice notto che se, poi Fabio. Io sono notto che se. Stai uscendo bene. Grazie. E anche la radio e il Santiago va bene? Fa un passaggio. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio, vediamo come sta andando adesso. 9, 10, come al solito. A chi è? Alfa 1? È un cucomane di Alfa 1. Per conosciuto perché ho detto mezza parola, purtroppo fa la rima. Ui, a chi è? A lui, Brooke. E chi? Le calmate! Chi c'è? Antonio. Natalino, mi ascolti? Se non ti ho riconosciuto con questo apparecchio non ti riconosco. Mi arrivi basso, basso. Anche tu mi arrivi come basso. Ah, ecco, ti confondo con Antonio perché arriva basso anche lui. Capito. Ciao Manuè, buonasera. Vedi, adesso non ho capito. Uffa. No, arrivi più forte di radio Antonio, anche se arriva basso. Però di radio arriva più forte di te. Tu sei arrivato basso basso, non si comprende chi sei dummi. La sali sì che ti la giudicava subito vola. Però esci forte di radio, a chi noi rinchini. No, non ho sentito di capire, sto ascoltando. Attacca la ragosa, la regge. A Romanco è sicura gubica. Ah no. Ebbè, che cosa vuoi fare? Vuoi zanca? Allora gira i randi e mi si cocca che faccio mal di schiena e sto crepando. È bello che non posso prendere neanche antinfiammatori io, perché piglio la... la cardiaspirina e non mi fanno effetto. Infatti, ma poi non mi vado in effetto a me, sarà infiammata, pure lui non ci mi va di mari, o come che ci ha mandato il tempo, non lo so, no. Sino io, ci sono andato con Antonello a pigliare roba a città mercato, mi viene chi su dolori, fa una cosa, non vorrei poter dire manca a camminare, Manuè, tutti ci hanno caduto. E allora? Catta, ma faccio pure un ginocchio infiammato, dimmi tu, perché mi fa male anche il ginocchio oggi. Aggiù mai gaggio, se non c'è equilibrio. Come si chiama? Cazzo, qua non va più creduto se non successo a me una cosa del genere. Ma io sono parecchio tempo così. Dio una bozza, Emanuele. Adesso ho il ginocchio e la schiena messa male. Però se cammino mi tira anche il nervo. Oggi sono andato a tenere il posteggio Antonello, un dolore, guarda. Tu già lo sai, a chi è uguale la situazione. Vabbè, dai, ti saluto Emanuele, saluto anche a Riccardino, io me ne passo in quel RT, ci sentiamo alle prossime, ciao Emanuele, ciao Riccardo. Chi è che chiama? Sempre basso di radio ti sento. Uscivi più bene prima. E se non sei al limite della comprensività, quasi quasi non ti capisco cosa dici. E in quel RT me ne vado in quel RT perché guarda, non ce la faccio, sono a dolori e sono messo male. Ci sentiamo alle prossime, dai, ciao Nicola, anche a te. Quel RT per me. Siamo al 10, chi c'è rimasto? No, io la sto guardando dal posto. Ah, Raffa. Ah, hai visto che fa la tappuccina? Eh? Quello di sinistra sembra... quello che ho visto io. Quello... quello che c'è di a sinistra. Però per te è un gioiello troppo bello. No, è troppo bello quello. Sì, sì, c'è anche la potenza era... quello che c'è. Troppo, troppo bello. Se tu hai il seguitore, quelli che piacciono a me. Sì, bello. Ma quest'altro invece, questo sembra di due bastone, non è più zero, no? Questo qui è poco simile al mio scappa. Capito. Questa che ci mandano a portare il mio scappa, poverino, è caduto durante la visione, si è salvato, gli manca sempre il contadino, poveraccio, mi fa una pena a volte. Ma perché? Cosa gli è successo? Non ho capito. Perché io ho avuto l'alluvione, io ero a Rubia quando c'è stata l'alluvione famosa, e praticamente è arrivato un fiume di 2 litri d'acqua nel mio magazzino, e lui era su una scatola su una campana che gli non si è rovesciato, però con colpi e tutto, poi alla fine insomma la scatola è arrivata a terra. E si è rotto un pezzo del contadino, non si è trovato né nel vestino né i tassi di destra, si manderà un po' più. L'hai salvato un po', vabbè, me lo mandi via WhatsApp per non dire che capa è. Aspetta, ti mando la foto della fettina, piccolina, tutta disordinata, non ti spaventare. Non c'è bisogno, anche noi siamo un po' disordinati qualche volta. Ecco, fatta. Devo rispondere a un po' di messaggi, però vabbè, andiamo la cartina. E voilà. Mi è arrivata. Dove di quella destra? C'è scritto 11:05:30. Vedo che ah, ecco qual è. Capito, 0905 fa. Bello. Poi è grande quanto un autoradio, costava un sacco di soldi, io guarda, cavolo, come faccio ad averlo, come faccio ad averlo, poi l'avevo trovato usato, perfetto, e l'ho pagato anche relativamente poco, l'ho pagato tipo un milioncino, qualcosa del genere, che sono sempre un sacco di soldi, eh. so, bellissimo, mi piace tanto il K e anche soprattutto il Wagner. Bellina quella stazione, eh. È tutta da sistemare quella stazione, tutta da sistemare, completamente fuori caratura, ci hanno fatto un sacco di porcherie dentro. Piano piano, adesso appena mi arriva l'altro frequentimetro, che il mio frequentimetro anche lui si è affogato con un'alluvione, mi ci metto sugli schemi, sui punti, piano piano, ma è tutta da fare, ci vorranno 20 giorni di lavoro per farla bene. Vale la pena, è molto bella. Comunque il SVR è quello che hai sopra, quello celestino, ce l'abbiamo anche noi, però con due schermi. Quello sulla sinistra, sopra il 10. Sopra il 34. Sopra il 34. Aspetta. Non ho capito, non ho capito. 34S. Quel rosmetro. Sì, abbiamo quello con due schermi invece che come il tuo uno. Ho capito pure il modello. Ma questo adesso l'ho rifatto per la 27, perché prima l'avevo modificato per lavorare sui 100 MHz, perché lo usavo per la stazione FM che aveva lui già. Fatto la modifica, poveraccio, però ho segnato tutto e l'ho rifatto come prima, capito? Tant'è che già va come rosmetro vattimetro, insomma, non è una poi di grande qualità, peggio così nuovo, 30 euro, roba del genere, una cazzata. È molto bello il Wagner Citizen Band, ma quello è sempre per la Citizen Band e l'Ares. Sì, quello è 40 canali, omologato, ma che c'è, tutto vergine, 4 watt, so che l'ho aperto, gli ho cambiato la configurazione dello spinotto perché c'avevo tutti i microfoni con la configurazione diversa da quella. E gli ho fatto anche per l'ascolta, però per l'ascolta è un po' troppo alto ed è un po' fastidioso. Devo riaprirlo per toglierglielo. Wagner. Anche il Wagner c'è per l'ascolta, che mi sarebbe comodo per l'ascolta con un attacco di messa in centro, solo che adesso è tutto attarato, se gli metto un amplificato inizia a innescare. Lo devo usare col suo microfono originale, che va benissimo, è il microfono originale dinamico, però diversa cosa sarebbe tararlo tutto, metterlo tutto allineato, eccetera, e averlo in perfette condizioni. Cioè, così come funziona bene, abbastanza bene, perché è abbastanza sensibile, anzi, la maggior parte delle volte la ricezione la faccio direttamente col Wagner, perché quella di 34 è un po' sordo, perché l'avevo fatto un po' sordo tanti anni fa, perché avevo due vicini a 30 metri e anche si spostavano di 30 canali, comunque se ne facevano un abbattimento. E allora gli ho abbassato un po' la ricezione, appena ed è diventato molto più selettivo, riusciva a parlare, capito? E quelli più lontani però lui poverino in questo momento non ci arriva un po' tanto il mio, cavolo che ciò. Quando metterò l'antenna su magari, ma avrò bisogno di usare il partner per ascoltare. Davvero non ti è arrivata ancora l'antenna? Sì che mi è arrivata, è che c'è una situazione strana sul tetto. E dobbiamo essere in due per forza, non per mettere il palo dell'antenna, no, per togliere il palo che c'è, perché l'hanno messo in maniera stupida, non è telescopico, l'hanno tipo incastrato, e allora ci vuole una persona che si occupa del palo, mentre l'altro svita le viti dei dadi, capito? Perché se cade quel palo, chissà dove va a finire, su qualche macchina in via, in cortile, brutto. Non c'è problema, mica veniamo noi a darti una mano. Sveglia la squadra per un'antenna, 10 persone. Non sai quanto ne ho messo da solo io. Ho detto Antonello, ho detto ascolta Antonello, organizziamoci, fino a vedere. Mi ha detto vi organizzo una forchetta come quella per prendere i fichi d'India, per prendere il palo. Vedi adesso, tu hai parlato ma hai parlato troppo presto e io non ho sentito la parola. Capito come funziona? Ma dai. Adesso ti faccio vedere che tempo c'è di portante. Occhio e aspetta. Stacco e riattacco. Però guarda lo zitter. 1, 2, 3. Hai visto il tempo che ti è passato dalla portante alla voce? Ho sentito. Ecco. Sentito la S e la E erano basse e poi è salito. capito. Va bene, allora devo aspettare un secondo. Me ne dimentico sempre perché non ho mai avuto, come dire, apparati che ci devo aspettare. Ma sai che addirittura quell'Ares che hai visto lì, quell'Ares praticamente nasce così. So che di quell'apparecchio che stai usando tu, vabbè, quello è un difetto, eh. E poi l'hai visto l'accordatore? L'ho visto. Mi stiamo ascoltando le stazioni americane country. Dimmi la frequenza. E a dirtela, non lo so con questo apparecchio quanto è quello che è accanto. Ah, con quello con la manopola. Lo vecchio. Scappa. Vabbè, non c'è della frequenza, guarda la scala, guarda che devi imparare, eh. Da 4.8 a 14, scusa, aspetta, da 4.8 a 14.5. Scappa, aspetta, eh. Allora tu hai la selezione della banda qua e poi sulla sinistra il main, c'hai il main. Su quella scala devi capire qual è la banda che tu hai selezionato. Guarda bene perché c'hai la selezione della banda sulla destra, piccolina, e poi sulla sinistra c'hai la scala. Lì in quella scala lì c'è una, due, tre, quattro probabilmente. Sì, perché sono quattro bande, esatto. Tu che banda sei adesso? Guarda un pochino, nella scala in quale banda sei? 10. Nella banda 10? No, aspetta. Un po' quello te lo vedo in alto. Questo è non la prima di basso, non la seconda, la terza, la quarta banda. Sei sulla quarta banda, perché la foto può sporcare, non si legge. Si legge, aspetta, ti mando la foto. Scappa. Ciao Lupo Grigio, se ho capito sei tu? Mi dispiace, ho uno smitter un po' avaro, dovrei cambiare apparecchio. Aspetta, devo cambio apparecchio. Comunque stai andando bene rispetto alle altre volte. Oh sì, sei comprensibilissimo. Fabio, tu ascolti a Lupo Grigio? Negativo, purtroppo qua devo essere proprio di ombra a lui. Cappa, ma lì ti messaggi? La foto? Cappa, sto cercando di beccare quella frequenza. Ehi, avanti Lupo Grigio, mi fa piacere riascoltarti dopo tanto. Va bene. Prova, sono qui. Ma possibile che sia 9800 di casa? Non lo so, adesso ti mando di nuovo la foto, non lo so, dico. Ti mando la foto che l'altra è venuta sfocata. E comunque sì, fai un po' grigio, sono qui. No, aspetta, volevo dire. Fammi la foto anche del pomellino piccolino che c'è stato quello grande sulla destra, cioè dal centro sulla destra, capito? Ascolto Lupo Grigio, sei più basso così adesso, però sei meno comprensibile. Uscivi meglio con l'altra, c'è un po' più di QRM, ti tiro fuori un po' così. Comunque la radio è buona se non ci fosse il QRM alto. Non ti ho capito Lupo Grigio, ripeti? Va bene, solo che c'è qualcuno sotto che ti copre un pochino e non riesco ad ascoltarti bene. Lasciate parlare un attimo Lupo Grigio, per favore. c'è qualcuno che ti mette una specie di portante quando parli tu. Ma non è che sei tu il problema, che stai uscendo male, perché prima stavi andando bene, poi hai staccato l'antenna per provare l'altra, hai riattaccato e ti sento male. Un po' di QRM, però ti ascolto bene. Sì, praticamente ci sono io e Fabio Master, però un po' in condizioni precarie, ha un'antenna, non è un'antenna molto performante, comunque, però ha dei begli apparati, l'unica cosa è l'antenna. Ciao, figurati, proviamo a far andare avanti Fabio, se tu lo ascolti, avanti Fabio. Gamma, sento il gruppo grigio, sento se mi ascolti, cambio. Grigio, ovvero non ascolti a Fabio. Ehi, va bene, lupo grigio, a presto. L'hai trovata Fabio, la banda? Negativo, perché non si capisce il pomellino quello piccolo in quale banda sia. Tu lo vedi il segno, per sapere se su, giù, cioè sono quattro posizioni, quale posizione siedi? Terzo, nella posizione C. Cap, adesso mi guardo la scala, perciò è 4-8, allora, 4-8 o 4-5? Sì, positivo, è quello. Sì, dovresti essere sui 9-800. Ho frugato, non ho trovato quello che stai ascoltando tu, ho trovato altro, vabbè. Dipende anche dalla posizione dell'antenna. Io sono molto ricettivo, con un'antenna autocostruita. Anzi, ti mando anche la foto, vuoi vedere questa antenna, ti metti le mani in testa. E manda, vabbè, io ho anche una posizione diversa, ho attaccato un dipolo e sta puntando solo verso una direzione. Sei pronto? Cosa? Aspetta, dice, ma questa è un'antenna, sì, è un'antenna e funziona anche molto bene. Guarda, basta avere un po' di precisione nel costruirla. E guarda cosa è riuscito, e mi faccio praticamente l'ho centrata tipo sui 19 MHz e poi con quell'accordatore che hai visto che ho costruito, che ti farò anche la foto là dentro, e me l'accordo ogni volta sui 9, sui 7, sui 22, capito? Capito, non c'è problema, ho visto anche antenne con radiali di Mantova solo. E guarda questa con il tubo. Quanto funziona bene, è furiosa, guarda. Ma io aspetta, i baracchini, sono arrivato io là. Non mica arrivare, mille risorse. Se prendi il baracchino, poi cosa fai? Fatti con lui, ah. Ehi, ehi, là. Buonasera a tutti. Non so chi ci sia. Sto entrando in questo momento, però stavo ascoltando. Ah, davvero? Ciao Gianni. Ciao. Bella Gianni, bella. Sì, lupo grigio, ti copiamo, ma sapevamo che eri in ascolto, quindi non ti abbiamo chiamato. Sei migliorato, vai meglio rispetto a prima, già stai andando bene. Allora, di cosa stavate parlando? Stavamo parlando di antenne. Oh, ho fatto anche l'antenna che funziona talmente bene, è incredibile, ma l'ho fatta in 10 minuti, con un po' di precisione. Ho già altro che stare a comprare le manto, fai discuni, se vedi qua ti metti le mani in testa, cosa ci ho combinato. Ma l'hai fatta tu? Vieni a gamba. Lo so che si possono autocostruire, bisogna solo avere manualità per farle e basta. E questa è sui 19 MHz di razza, poi io ho fatto l'accordatore per portarmela dove voglio. Ogni tanto riesco a raccontarla anche sulla 27 e non tira così male. Se conti che ce l'ho dentro a casa e io ti sento benissimo con il circuitone o con l'antenna, pensa tu. Ma non è provata per uscire? Non è fatta per uscire, è fatta solo per ascoltare. Ah, ho capito. Solo per la ricezione. Qua sono. Sto chiamando però. Siete da son qua, dimmi. Aspetta, ti mando due foto. Manda, manda. Cos'ha acquistato roba nuova, Riccardino? Sì, ho comprato altri due apparati. Bobo, fra poco ci sei tu da casa, non ci state più, non ci stai più. Siamo andati, guarda, dimmi cosa ne pensi, sono quei due. Menta. Cambio. Sono praticamente io e Doppio Room, Fabio e Lupo Grigio, però non penso che ascolti né Lupo Grigio né Fabio. Io ti saluta Eugenio e saluta anche a Lupo Grigio. Caffa, saluttoni di cambiatissimi. Gambiono. Attenzione canale 10. Comi. Ricordi, c'è qualcuno che ha fatto attenzione passo passo, hai sentito? Sì, è stato un quadratino. Sto provando questo baracchino da mezzo watt, qualcuno riesce ad ascoltarmi perché sono dentro casa, con l'antenna in gomma. Caffa, cosa hai detto, Riccardo? Che io non lo sento, tu l'hai sentito? Proprio basso basso, la coperta Eugenio. Quello lontano nel fondo, che è Eugenio di Porto Torres. Sto cercando di ascoltare con la compressione dello sventratore, è di basso dentro la compressione dello sventratore, capito? Parlando in 35, facciamo andare avanti a Eugenio e poi al quadratino basso basso. Dai, adesso attacco il lineare da un kilowatt, come mi ascoltate adesso? Ciao Eugè, ben sentito, ciao Fabio e ciao Riccardino, c'è qualcun altro qua? Lupo Grigio. Non ho sentito Lupo Grigio, avanti Lupo Grigio. E io guardando. Ciao Gianni, anche a te. Mi sono dimenticato. Ma Lupo Grigio non lo sento, c'è ancora? Lupo Grigio, se ci sei. Triangolo. A me sta dicendo fa. Eia, Sergio. Adesso mi ascolti, ho messo da 2 watt sto uscendo. Robè. Dimmi. Prenda Lupo Grigio, avanti Lupo Grigio un attimo che stava parlando. Ha detto anche con un watt ti ascolta bene Lupo Grigio. Ciao Eugenio, Eugenio. Eugenio, avanti Lupo Grigio per saluti a Eugenio e poi Doppio Room e Roberto. Va bene, Roberto, che ti ascolta benissimo, comunque Lupo Grigio. Avanti Doppio Room per i saluti a Eugenio, lo saluto anch'io comunque, ciao Eugenio, scusa, mi sono dimenticato e devi anche commentarmi i miei apparati, Doppio Room. Te li sto commentando qua in diretta, sono Grigio, sono degli apparati. Mi piace molto quello che dice ancora i greci. Aspetta che saluto a Eugenio, il più forte del portatore. Ciao Eugenio, ben sentito, ci sentiamo domani. Il lupo grigio l'ascolto Santiago 7, però nel fondo, perché c'ho un corremme molto alto, e credo che lui mi ascolti, però è basso di radio. Ok, vai Fabio e poi Gianni Doppio Ru. Scappa, io saluto tutti quelli che non mi sentono, ciò che dovete salutare voi. Avanti Gianni. Ma come ti è stata l'antenna? Ti è arrivata? Sì. C'è tutto, cercavo l'antenna e tutto, solo che dobbiamo salire sul tetto e fare un'operazione particolare, perché devo togliere un palo ed è un'operazione un po' pericolosa, capito? Dunque dobbiamo essere in due, ci dobbiamo anche ingegnare, perché se questo palo cade dal tetto finisce o sulla via o sul cortile, insomma su qualche macchina. Ehi, ti faccio venire l'elicottero dei vigili del fuoco, lo tirano su loro, non c'è problema. Ma no, sto scherzando, per la minchiata di chi hanno fatto questi qua, quando ho messo quel palo, tra l'altro su una struttura mia dove c'era prima la mia antenna, hanno usato a fare le parabole, tutti a pezzi, vecchie televisive, vi dicendo, per la minchiata che hanno fatto, ci vorrebbe veramente un elicottero, perché non ti viene in mente altro, l'ho messo in maniera così stupida, guarda, fare una foto e te la mando, perché se la vuol dire tutto male, è una cagata. Ascolta, metterci l'antenna su quel palo lo fa? E da quanti metri la devi prendere la scala per arrivare fin lassù? Devo fare una foto, ti faccio una foto del palazzo, da giù, così vedi questo palo come è messo. E ne sta cadendo, capito? Ne sta pure cadendo. Cazzarola. Chiamano i vigili del fuoco dicendogli che sta per cadere, se lo possono togliere, non possono fare. Sì, capo, non voglio fare casino a questi difesi. Voglio riuscirci, mi sto inventando un sistemino, agganciarlo con una corda, fare tipo una forchetta su un altro palo, uno giù con questo palo in mano che lo tiene più o meno all'altezza di quella televisiva rotta che c'è, l'altro che invita questo morsettone stupido che hanno messo, insomma tra la corda, quello che lo tiene da una parte, l'altro che ci mette la mano mentre svista, probabilmente si riesce a toglierlo. So che è un'operazione da fare proprio con delicatezza, sei sul tetto, sei sulla scala, un casino. Berto? Dimmi Riccardo. Alla fine come sto uscendo che avevi detto di provarlo a casa? Segnale 9 più 30, la radio è bella, chiara, forte, come piace a me. E grazie, scusa se mi sono intromesso Fabio, avanti doppio rum. Vabbè là. Ma bisogna che trovi qualcuno che faccia la scimmia, che riesca a arrampicarsi e che sappia giostrare su un tetto volettego. Perché se è così pericoloso, ci vuole persone esperte. No, niente tegole già, niente tegole. Si potrebbe anche lavorare in sicurezza, perché se hai un telescopico, una volta che monti l'antenna, poi man mano la alzi e da lì vai avanti, no? Il problema è che sono riusciti a infilare, non a infilare, ad appoggiare su un palo da 4 cm e mezzo di diametro, un altro palo da 4 cm e mezzo di diametro, perciò non sono uno dentro l'altro, sono infilati uno sull'altro. E poi c'è un morsetto che è un po' acceduto, che è un morsetto di quelli da impalcatura, capito? Da ponteggio. E questo morsetto prende un pezzettino di un palo e un pezzettino dell'altro. Io non so con quale testa la gente fa delle cose così allucinanti. Perché poi, cioè, questi pazzi cadono e quando cadono cadono su qualcuno, capito? Potremmo almeno metterci un tubo più stretto all'interno per fare l'anima. Categoria, cugiate, se si smolla ne pare due. E infatti, tanto è che quando hanno cambiato l'antenna del palazzo, sono cose che io non ho visto perché non c'ero proprio, ero fuori. E quando hanno cambiato l'antenna del palazzo, mica hanno riutilizzato quel palo, hanno fatto un lavoro ex novo, sono portati di 4-5 metri, due staff, il palo telescopico, un po' di tiranti e l'antenna è ben piazzata. Di quello se ne sono proprio lavati le mani, ci lasciamo così, infatti c'è il tetto che è un cimitero di antenne, di pezzi di parabola, di cassate, cioè anche io metto antenne, un giorno sì, un giorno no, e non lascio mai un'ondetta, perché non si sa mai, a parte il fatto che non è educazione, e poi puoi creare danni brutti. Scusate se mi intrometto di nuovo, vado in carica la batteria, saluto al lupo grigio, Fabio, doppio room, Roberto, se mi sto dimenticando qualcuno ci faccio avanti. Va bene, ciao Riccardo, buona carica quando la fai. Se non casino, non ho ancora capito se è a Tegole questo pezzo, come cavolo fanno a lasciare la roba sotto il tetto a Tegole? Nel baraduto. No, non è a Tegole, però sta le acque, è a Granigliato, abito a Granigliato, e poi c'ha le acque e dunque c'è una parte che è piatta, nella parte proprio al centro, poi nel buca la cabina che praticamente trattiene l'oggetto dell'ascensore, e lì c'è un altro posto dove puoi salire, c'è uno spazio dove puoi stare in piedi tranquillo, ci puoi anche mettere la scala volendo. Il problema è che hai lasciato questo palo così che è tutto inclinato e se ne sta già cadendo da solo, e poi sul tettuccio ci sono gli avanzi dell'antenna dei 40 anni, capito? Che così, non ne ha tutti nulla, questi arrivano, scagazzano tutto, si prendono i soldi e se ne vanno, ma che siano scesi dal tetto con un pezzo di antenna a picchia. No, io quando ho cambiato l'antenna ho fatto tutto, tubi, tutto quanto, ho regalato due tubi a un amico e gli altri li ho dati tutti a Claudio, insieme all'antenna, e gli ho detto il primo che ha bisogno, che è una persona bisognosa, che non può farlo, gliela regaliamo. Cappa, hai visto? C'è un po' di educazione, tanto se aspetto non lo vede nessuno. Funziona? Sì, sì, funziona tutto. Fai vedere i canali? Sì, sì, funziona, lì si vede anche se le cazzo, capito? Tutto a posto. Quindi mi viene e si innandali. Così. Ogni volta che salgo sul tetto ne vedo cadaveri e ne scendo spesso con pezzi di antenne che sono di da almeno 20 anni. È un modo di fare sinceramente che proprio sono uno schifo, c'è cioè, di porci lavorano così, ho lasciato da pensarci. È pericoloso, passa un po' di vento in più e ci scendono giù e fanno male a qualcuno, o schiacciano qualche macchina, rovinano qualche macchina che c'è giù. O se sta passando qualche persona, è pericoloso. Ma stai scherzando, c'è il valum della UHF e questo valum non c'è arrivato di giù perché ce l'hanno messo, no? Si è proprio staccato quell'antenna che aveva 40 anni e fortunatamente è caduto in un punto del tetto in cui rimane incastrato. Se avessi rimbalzato stava passando in moto, voglio vedere. Cappaga, vabbè. C'è sempre gente porcacciona lavorando, avanti roba. Ehi, hai il parapetto molto alto, Fabio. Ma ce n'è il parapetto? Come non c'è il parapetto? Sul tetto non c'è il parapetto. Esatto. Il cacchio. Tu, Danusa, è che per riuscire a centrare la fluviale, per passarci poi i cavi, ci passano la guaina con i cavi dentro. Poi buco il fluviale all'altezza del mio piano e me lo porto dentro, capito? Faccio un buco, porto direttamente la guaina con tutti i cavi dentro. E per vedere quello devo essere legato, perché devo camminare tipo ragno a pancia a terra piano piano, così poi riesco a vedere il bordo del tetto e infilarci il piombino. Se no viene male, cioè non essendo legato non mi fido. Cazzo, stai attento, non c'è a scherzare. Capito, io non me lo ricordavo il tetto così com'era, non me lo ricordavo perché vabbè tanti anni fa, poi ho visto tanti dischetti, poi alla fine di anni le immagini. Non sai, ho messo la scala, ho tirato giù la scaletta con quella molla, ho aperto questa finestrella, mi sono fatto il giro, quando ho visto quel palo mi sono messo la mano in testa. Non fa. Ma su questo palo c'è qualche antenna fissata TV o è vuoto? C'è quello che è rimasto delle antenne TV, appetti, così, un po' storte, radicelli, eccetera. Non è che facciamo peso perché sono leggere, qui da questa posizione si vede Monteoro, lo vedo anche da terrazzino, perciò non ci vuole tanto, sono antenne piccole, una UHF, l'altra UHF, arrivano col cavo direttamente in centralina senza neanche riuscire a fare l'applicazione, arrivano in centralina e poi la centralina mixa e manda i piani. Ci sono le antenne arrugginite sopra, non è che si sono messi a togliere a fare, no, qui non ci sono più neanche i tiranti, capito? Ma una domanda, questo palo è vicino alla fine del tetto o al centro tetto? Allora, è al centro tetto, però corrisponde praticamente al bordo del rialzo del tetto dell'ascensore. Perciò ci si arriva sul bozzettino famoso che tiene questi due pali impilati uno sull'altro, una volta che si è in piedi sul tettino, diciamo, per il buca dell'ascensore. Però poi è bello alto, sarà alto tipo altri 4 metri. se io lo mollo lì dal montetto, questo faro dove scende? Bisogna imbragarlo allora questa cosa. Sì, sì, poi però se scende di punta sul tetto buchiamo di penalizzazione e lì nasce un altro problema. Allora ci vuole un palo con una forchetta che lo tenga, mentre l'altro svitta, comunque sia gli mettiamo una corda nel frattempo, perché se ne scende in qualche maniera inizia a ribaltare se lo arriva. Perciò lo leghiamo con una corda e poi uno rimane con un palo verso l'alto per cercare di farlo scendere piano piano, l'altro svitta e subito deve mettere le mani sul palo per tenerlo, sennò questo fa danno. Cercate di farlo con la massima attenzione e sicurezza soprattutto. E scappa, che palle, va, è arrivato tutto, a mettere questa antenna sta diventando un'opera faraonica, capisca. Cioè notiamo i vigili del fuoco che vengono con l'autoscala, loro tanto hanno tutti i sistemi di sicurezza e dice guardate che c'è questa antenna pericolo, vengono subito, è capitato anche a me con Niccioni, da noi, sono venuti immediatamente. Eh sì, solo che non volevo fare il caso, capito? Poi in condominio chissà cosa ci sono, cosa fanno, eccetera. Mi devo organizzare io con calma e fare il lavoretto senza neanche dare troppo nell'occhio, perché già lo sai come sono i condomini, per carità. Ma il tetto è condominiale? Sì, sì. Ci puoi salire tranquillamente? Certo, un dodicesimo è mio. No, no, sette volte no. Non, diciamo solo per interventi puoi andare e non puoi fare niente. No, no, un dodicesimo è mio. Guai, no, tutta amministrazione, eccetera. Io ci sono praticamente nato in questo fatto e so bene come bisogna gestire le cose. E poi vengono fuori voci normative eccetera, mi ci mettono la, capito la mano con la faccia. Ok, vediamo un pochettino se nel frattempo c'è ancora Lupo Grigio. Ci sei Lupo Grigio? Io non lo sento, c'è qualche donato sul 10? Riprendo io, io sento, due cabine dell'ascensore, da lì uno si mette sulla cabina dell'ascensore con la corda e la fa scendere piano piano, come abbiamo fatto lui. L'abbiamo fatto così, l'abbiamo calato sul tetto il tubo, poi una volta che era giù l'abbiamo smontato, abbiamo piazzato prima l'antenna nuova e poi abbiamo smontato il vecchio. E cappa, noi dobbiamo, cioè voglio utilizzare quella base che ho messo, sono sassone gigantesche, il palo è bello esistito, perciò poi alla fine metto adesso per farlo palo col palo nuovo e me lo porto ritorno sull'antenna. Il problema è che l'antenna televisiva è troppo in alto e non riuscirò a passare l'antenna televisiva, mi devo mettere lì a fianco, speriamo di non disturbare. Che antenna hai preso? Come già? Quale antenna hai preso tu? Che palo ho preso da 4 cm e mezzo, quello è quello, un pallone. Non il palo, l'antenna, che cosa hai preso di antenna? Ah, un'antenna leggera perché ti apre il vento qua, nei palazzi, una 580, si chiama Venom, pesa un po' meno di 2,5 kg. Ah sì, ma l'avevi detto, sì, non mi ricordavo adesso, sì, una 580, ho capito. Va bene, là. Speriamo, e ti volevi attaccare al tubo che c'era già. Sì, al tubo dove prima c'era la mia antenna era lì prima, poi sono sparito, ho tolto tutto, qualche radiale l'ho trovato in cantina, quasi quasi gli faccio un'altra antenna con i radiali già. Infatti è una boomerang. Ma guarda che con un gioco del genere, da terrazzino, con questo apparato che stai ascoltando, però quando era tutto smanettato, se ne faceva 17 di watt, poverino, tant'è che assorbiva qualcosa tipo 6 ampere, cioè roba strana. Ci ho parlato in Russia, da terrazzino, con due radiali del cavolo di una vecchia mandorla. Sì, c'è molta gente che lo fa con le radiali, anche Luca l'ha fatto con le radiali della mano. E così è. Vabbè, capito l'antenna, ancora da definire. Esagono. Ma dimmi una cosa, ma perché nel frattempo invece non ti piace direttamente l'altra antenna e te ne freghi di quel palo? Perché con questa locale è capace di mettere l'antenna, roba. Diciamo, è così pericolante questo palo? È abbastanza, è un po' storto. È storto e rimane incastrato nel morsetto. E sono lo leghi, lo imbraghi uno con l'altro, gli fai una sicurezza, per dire, se si rovescia cade, lo ancori alla base dell'altro palo. No, saliamo e facciamo il lavoro che vogliamo fare, allora così anche miglioriamo il condominio, perché c'è questo lavoro qua, facciamo pulizia del tetto. adesso stamattina, per esempio, siamo una mattina lì, stamattina saremo pronti ad andare a vedere un quartetto, a farlo vedere Antonello.